271. Germano in umido secondo. Mettete Germano nella cazzaruola con grammi 30 di burro e fategli prender colore. Levatelo e gettate nell'unto rimasto un cucchiaio di farina per farle prendere, rimuovendola col mestolo, il color marrone. Tolto dal fuoco e non più a bollore, versate su quell'intriso mezzo litro di acqua e rimetteteci il germano, conditelo con sale e pepe e fatelo bollire coperto fino a cottura completa, con un quarto di una buccia d'arancio e non sol pezzo, una costola di setano lunga un palmo e un pezzo di carota, l'uno e l'altra trinciate all'ingrosso. Per ultimo, passate il sugo, spezzettate il germano nelle sue giunture, rimettetelo nel suo intinto, spremendogli sopra il sugo del ricordato arancio, per farlo bollire ancora pochi minuti e servitelo. Nella stessa guisa si può trattare l'anatra domestica, ma questa, essendo molto grassa, sarà bene togliere dall'intinto il soverchio unto prima di mandarla in tavola. Uno dei modi per toglierlo è di versare l'intinto in una scodella e di posarci sopra qualche pezzo di carta straccia sugante, la quale ha la proprietà di assorbirlo.